Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Benvenuti a tutte e tutti su Liberi Dentro Eduradio TV, questa mezz'ora di programma tra il carcere e la città. Oggi è giovedì 11 novembre e qui con voi ci sono sempre Caterina Bombarda, che sono io, e Antonella Cortese. Ciao Antonella. Ciao, benvenuti a tutti. Siamo sempre in onda su Teletricolore, Radio Città Fujiko e Lepida TV. Oggi apriamo con un articolo che è stato pubblicato su crpiemonte.it, firma del garante regionale del Piemonte, che è Bruno Mellano, e riguarda il tema dei ristori, i ristori per le carceri. Una notizia questa importante, perché riguarda i cosiddetti sussidi, sostegni alle categorie più colpite dal Covid. In questi mesi si è molto discusso sulla necessità e anche sulla opportunità di riconoscere se erogare sostegni, risarcimenti, rimborsi alle molte categorie colpite dal Covid, ed è questo un dibattito che si è animato e che ha anche diviso parte della società a causa della limitatezza delle risorse e della necessità di operare scelte di priorità. Scusami, ma dove sarebbero più utili in questo frangente, secondo te, delle misure di aiuto? Ma allora, vi è un settore della nostra società che in questo periodo di emergenza sanitaria ha vissuto forti conseguenze anche per le decisioni delle autorità competenti volte alle limitazioni dei contagi e alla definizione di procedere di prevenzione e di intervento, ed è la comunità penitenziaria, ed è un segmento significativo della nostra società. Pensiamo che in Italia ci sono 53.000 persone detenute e oltre 102.000 altre persone che sono sottoposte a misure restrittive della libertà personale, che vengono prese in carico dagli uffici di esecuzione penale esterna, i cosiddetti UEPE. In Piemonte questi numeri sono oltre 4.000 detenuti in carico all'UEPE e altre 13.000 persone seguite da questi uffici. Tant'è che, scrive il garante del Piemonte, appunto Bruno Mellano, abbiamo vissuto questi mesi di pandemia come una insopportabile limitazione della libertà, ma quasi tutti poi noi abbiamo accolto con favore le disposizioni volte a proteggerci noi stessi, ma a proteggere i cittadini, in primo luogo i cittadini più deboli. E allora, parlando proprio dei cittadini più deboli, proprio questi ultimi, se ci si domanda con mente aperta e anche cuore disponibile quali siano le condizioni di vita per chi era già privato o limitato della libertà, la risposta è abbastanza evidente: sono le persone detenute che hanno sofferto di più. Sì, le persone ristrette, una ristrettezza nella ristrettezza, insomma, pazzesco. Sì, e questo vale sia per chi è stato recluso in carcere, sia per chi era ai domiciliari o sottoposto alle misure restrittive in strutture alternative alla detenzione. La limitazione della libertà è stata doppia e ancora più pesante, per via in parte anche della sospensione dei colloqui personali e della interruzione di tutte le attività che prevedevano l'ingresso di insegnanti, educatori, che hanno iniziato soltanto negli ultimi mesi a rientrare, quindi pensate, oltre un anno e mezzo di privazioni. E a questo si aggiungono i timori amplificati per le informazioni incerte, anche la cosiddetta infodemia, pensiamo, durante il Covid, cioè la circolazione di una quantità eccessiva di informazioni, anche solo riguardo al virus, talvolta non vagliate con accuratezza, che hanno reso difficile l'orientamento delle persone. E anche il fatto di aver considerato il carcere un ambiente protetto, tra virgolette, quando protetto assolutamente non lo era. Pensate che soltanto in Piemonte si sono registrate all'inizio della pandemia 498 detenuti e 420 agenti penitenziari e 33 operatori positivi. Al momento sono stati azzerati questi dati, ma restano ancora due operatori positivi. Quindi, per concludere, dice il garante, ci sono molte valide ragioni per dare dei ristori speciali alla comunità penitenziaria. Ma di che ristori stiamo parlando, Antonella? Non di ristori in denaro. Ristori in termini di liberazione anticipata. Per tutti quei detenuti che abbiano vissuto questo periodo di emergenza in carcere, che siano riusciti a mantenere una buona condotta e magari pure a fare cose eccellenti, come per esempio concludere un anno scolastico, ottenere un attestato regionale o di formazione o che semplicemente abbiano assicurato l'adesione a percorsi lavorativi interni o che siano riusciti senza lavoro, senza sostegno, senza famiglie alle spalle a resistere. Quindi un ristoro, questa cosa mi ha colpito molto, ecco, per la capacità di resistenza, di resilienza che buona parte dei detenuti italiani ha dimostrato di aver avuto. E a tutti loro dedico questa canzone, Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door, un brano scritto per un film che racconta di un rimorso, ascoltiamo quale e ci rivediamo tra pochissimo sempre su DuRadio. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knock. Put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. E rieccoci, bentornati dopo la pausa musicale, siamo sempre su Liberi Dentro Tu Radio TV. Apriamo una finestra sul mondo, in questo caso siamo in Marocco, vero Antonella? E ci parli di un'eccellenza marocchina. Sì, Caterina, vi parlo di Najah El Abadi, sperando di averla pronunciato nel modo corretto, che è stata eletta al vertice della Federazione Mondiale di Neurochirurgia dopo 30 anni di pratica nella specialità e dopo 27 anni di insegnamento all'università. Pensa che rimarrà alla guida del World Federation of Neurosurgical Society per ben 2 anni e la sua elezione è arrivata al termine di una votazione elettronica dalla quale ha ottenuto al secondo turno 127 punti a favore, quindi più del 50% per fortuna. E la Federazione Mondiale delle Società di Neurochirurgia, fondata nel 1955 in Svizzera come organizzazione professionale, scientifica e non governativa, è composta da 130 membri, da 130 soci ovviamente. La cosa molto importante è che ha status consultivo presso le Nazioni Unite, quindi non è una cosa da poco, e aspira a promuovere il miglioramento complessivo delle cure neurochirurgiche. E la missione della federazione è quella di lavorare per migliorare l'assistenza, la formazione e la ricerca neurochirurgica in tutto il mondo, a beneficio ovviamente dei pazienti. Quindi una federazione, questa neurochirurgica, veramente importante, ma anche un importante traguardo per questa professoressa. Sì, infatti è proprio così, perché la professoressa El Abadi ha già ricoperto il ruolo di vice tesoriere della federazione, ma soprattutto è la prima donna araba e africana ad accedere ai vertici e anche presieduto il comitato per le donne in neurochirurgia della federazione. E oltre a queste funzioni, la dottoressa El Abadi è membro dell'Associazione Mondiale delle Donne Neurochirurghe e le sono state affidate anche la carica di presidente della Società Marocchina di Neurochirurgia e presidente dell'Associazione Mediterranea di Neurochirurghi. Siccome stiamo parlando di una professoressa, chiaramente lei avrà insegnato dove? Allora, guarda, ha iniziato ad insegnare neurochirurgia nel 1994 presso la Facoltà di Medicina di Rabat, prima di diventare nel 2015 capo del Dipartimento di Neurochirurgia dell'ospedale Ibn Sina di Rabat. E Ella Abadi è direttrice di programmi nella scuola di medicina di Rabat, specializzata in chirurgia vascolare, specialmente del tronco cerebrale, e della base cranica e stereotassica, chirurgia funzionale e chirurgia della colonna vertebrale. Ma ciò che è veramente importante è che è anche coinvolta da molti anni nella formazione di studenti africani in neurochirurgia nell'ambito del programma 100 for Africa, e centro di riferimento della Federazione di Rabat per la formazione di neurochirurghi africani. Inoltre è autrice di oltre 100 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e nazionali, capitoli di libri in neurochirurgia, e ha partecipato a tantissime conferenze e presentazioni a congressi internazionali e nazionali. Ed è anche caporedattrice del giornale marocchino di neurochirurgia e revisore di neurochirurgia. Ma pensa che in rete, Caterina, si moltiplicano le congratulazioni per la consacrazione di questa eminente specialista marocchina. È bellissimo, soprattutto perché abbiamo detto la prima donna araba africana ad accedere ai vertici. Però, detto in tutta onestà, speriamo che diventi la normalità e che questa non debba essere una notizia, perché per le donne deve essere naturale, come per gli uomini, poter accedere ad importanti cariche, e che quindi queste informazioni diventino sempre, sempre più, diciamo, rare, perché significherà che sarà la normalità avere donne ad altissimi livelli e a ricoprire tutte le cariche. E per augurarci che questo avvenga in breve tempo, ascoltiamo Oum Taragalte. Ben ritrovati, sempre su Liberi Dentro di Radio TV. Il nostro colloquio, come sapete già da qualche giorno, è con Giulio Russi del Centro di Giustizia Riparativa Caritas di Bergamo, e in questi giorni abbiamo parlato sia del centro che della sua attività di mediazione, e oggi parliamo di giustizia riparativa. Ciao Giulio e bentornato. Ciao Caterina, grazie a tutti. Come dicevamo, un altro caso in cui interviene l'attività di mediazione è quella del cosiddetto dialogo impossibile, come ci ricorda tante volte Franco Bonisoli, che hai citato l'altro ieri, che salutiamo, ovvero la giustizia riparativa, dove avviene l'incontro tra autori di reato e vittime. Come agisce in questo caso la mediazione e come mai è necessaria? Beh, io vorrei citarti due aspetti della necessità della mediazione anche per, o forse soprattutto per reati gravi. Il primo aspetto lo prendo da un librettino non molto alto, ma abbastanza profondo, di Jacques Derrida, che si intitola Perdonare l'imperdonabile. La sua tesi è quella facilmente comprensibile, che solo l'imperdonabile può essere perdonato, perché tutti siamo capaci e siamo in grado di perdonare ciò che può essere perdonato. Il problema è quando succede qualcosa che è imperdonabile. Lui l'aveva scritto questo in risposta a un suo collega che citava la Shoah e che quindi riteneva che non fosse possibile pensare ancora al perdono dopo quello che era successo alle milioni di persone morte durante il periodo della Shoah, della catastrofe della Shoah. L'idea che questo possa avvenire, che questo possa essere fatto, è già di per sé un'idea, come dire, rivoluzionaria, ma secondo noi fondamentale per la giustizia riparativa. L'altro è un esempio molto pratico, e ne abbiamo avuto riscontro ancora pochi 15 giorni fa, ancora qui a Bergamo, perché è ritornata da noi Agnese Moro insieme ad Adriana Faranda. Come tutti sanno, Agnese Moro è la figlia di Aldo Moro, Adriana Faranda era un esponente delle Brigate Rosse, e loro due, è già la seconda volta che vengono a Bergamo. Agnese Moro è già venuta una volta anche da sola, è venuta anche con Franco Bonisoli. E il fatto che queste persone si siano incontrate per 7 anni nel silenzio assoluto e con le difficoltà che hanno incontrato nel vedersi, nel parlarsi, nel ripercorrere quel periodo così faticoso per loro, così doloroso e faticoso per loro e così controverso anche per la storia italiana, e che queste persone siano riuscite a, come dice Agnese Moro, ad uscire dalla gabbia del rancore in cui erano rimasti chiusi per 7 anni, è sorprendente. E questo ci dice che la giustizia riparativa può agire in questo senso, se non altro quello di togliere il dolore per quello che è successo, lo dice Agnese stessa, il dolore per quello che è successo nessuno glielo toglierà. Quello che le è stato tolto è la rabbia, il rancore, la frustrazione, una vita vissuta con questi sentimenti. Lei alla fine, no, che sta continuando tra l'altro, perché questi incontri tra di loro continuano ancora, lei dice che questi incontri le hanno cambiato la vita, e noi siamo convinti che questo possa avvenire non solo per lei, ma anche per altre persone. Ecco, Giulio, il mediatore di per sé dovrebbe essere colui che è imparziale, super partes, no? Ma è sempre possibile trovare in se stessi questa capacità, e soprattutto è possibile esserlo in questi casi in cui reo e vittima si incontrano? Ecco, io cambierei la parola imparziale, anziché, e l'ha citata anche la ministra Cartabia nel disegno di legge sulla giustizia riparativa, e userei la parola equiprossimità. Quindi noi cerchiamo di essere vicini alle persone, ad entrambe le persone. Abbiamo davanti dei fatti gravi, molto dolorosi, imperdonabili a volte, ma sono fatti. Quello che invece noi incontriamo, cerchiamo di incontrare, non sono i fatti, quello li lasciamo raccontare a loro perché è necessario ed è fondamentale che loro si possano raccontare, ma quello che noi cerchiamo di raccontare e di ascoltare sono le persone. Quindi quello che impariamo nella nostra formazione, di più di 200 ore di formazione che facciamo per noi e che facciamo per i nuovi mediatori e che poi continua nel tempo, non è che finisce, ma c'è una formazione permanente che noi teniamo a fare per noi stessi e per gli altri mediatori, è proprio quello di riuscire a stare sui fatti, rimanendo il più possibile vicino alle persone e non facendoci travolgere dai fatti stessi. Se non ce la facciamo perché siamo troppo coinvolti su questo e ce ne rendiamo conto durante una mediazione, il mediatore fa un piccolo passo indietro per quello che siamo in tre e sono gli altri due che continuano la mediazione finché anche a quel mediatore è passato quel momento difficile e può rientrare nella mediazione stessa. Certo, questo è giustissimo anche per tenere conto di tutti gli aspetti umani. Esatto. Sì, e io infatti allacciandomi a questa ultima cosa volevo chiederti che cosa è per te la giustizia riparativa e se pensi che sia un percorso che tutti in qualche modo dovrebbero fare. Uno dei nostri formatori, il professor Leonardo Lenzi, che tra l'altro è il marito della professoressa Claudia Mazzucato, ci ha detto che non si fa mediazione ma si è mediatori. Quindi mediatore è un modo di essere. E ti dico sinceramente, qui sono io che parlo, non come mediatore, ma come Giulio Rossi, il percorso formativo, la riflessione poi che viene fatta comunque sulla mediazione, sulla giustizia riparativa, cambia anche il tuo modo di vedere la giustizia, di vedere gli altri e di vedere i tuoi rapporti con gli altri e così via. Quindi sarebbe veramente un percorso come la filosofia. Si studia a scuola, ma un conto è studiare la storia della filosofia e un conto è fare filosofia. Ecco, noi non vogliamo fare storia della giustizia riparativa o storia della mediazione, ma vogliamo essere mediatori. E penso che questo potrebbe essere, sì, come dici tu, aperta a tutti. È necessaria per tutti. Grazie Giulio, anche per oggi un saluto e a domani dove ci rincontriamo per l'ultima volta, almeno per queste puntate di Eduradio, ma rimarrà in contatto con noi e parleremo di collaborazione col carcere di Opera di Milano. E ancora una canzone e ci rivediamo tra pochissimo per i saluti finali di fine puntata. Ciao Giulio! A presto, ciao. Ladies and gentlemen, there you see the greatest tea room orchestra in the world. It's my pleasure to introduce now in their first live appearance for goodness knows how long in front of an audience, the Beatles. It's now on! Hey, Jude. dopo aver ascoltato il nostro Giulio Russi, che è mediatore sul metodo della giustizia riparativa del Centro Giustizia Riparativa Caritas di Bergamo, continuiamo con le nostre rubriche, le pillole di Antigone, questa volta sull'ergastolo ostativo e le proposte dell'associazione Antigone a riguardo, e a seguire la comunità educante con i carcerati, con la comunità Papa Giovanni XXIII, che presenta il progetto CEC al presidente Mattarella durante il 50° anniversario. E noi ci salutiamo e vi ricordiamo sempre di scriverci, redazione liberidentro @gmail.com è il nostro indirizzo, scriveteci tutte le lettere che volete, noi le leggeremo, vi risponderemo, le racconteremo anche qui in diretta se serve, e un saluto da me, che sono Caterina, da Antonella Cortese e ovviamente dal nostro Enea Flacco. A domani e grazie. Liberi Dentro e Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.